Italia in controluce, la politica nel tunnel. Prima è venuto allo scoperto Giuseppe Vacciano, poi è stata la volta di Mario Michele Giarrusso e questa mattina Elena Fattori. I senatori del Movimento 5 Stelle che non hanno seguito l'ordine di scuderia, scheda bianca per la votazione a Palazzo Madama per l'elezione del presidente. La proposta del nome di Grasso è stata una grossa trappola, tuona questa mattina dal suo blog Beppe Grillo. Sarà pure stata una trappola, intanto si è sentito qualche scricchiolio nella finora compattissima o quasi compattissima compagine grillina. E stamattina c'è davvero molto nervosismo in questa compagine. Se è vero che Vito Crimi, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, ha cacciato tutta la stampa dal terzo piano dove si sono riuniti i senatori del 5 Stelle, probabilmente insomma discuteranno di quanto accaduto al Senato, cioè la dozzina di grillini che ha votato per Pietro Grasso. Ma facciamo un punto con la nostra Alessandra Schepisi da Roma. Alessandra. Sì, buongiorno Piera. C'è decisamente molto nervosismo all'interno del Movimento 5 Stelle, anche tra l'altro nello stesso blog di Beppe Grillo qualcuno fa notare che certi commenti molto aspri che risultavano tra più cliccati sono spariti, insomma sono stati che ci sia anche una censura sul web. E tra l'altro, come dicevi tu, proprio sulla rete sono arrivate le prime confessioni, tra cui quella del senatore Giuseppe Vacciano, che si dice pronto ad affrontare le eventuali conseguenze, ma rivendica quella che poi definisce una scelta di coscienza. Poi Francesco Campanella, che ha messo le mani avanti per il mio voto, non mi hanno promesso nulla. E poi Michele Giarrusso, Elena Fattori, sarebbero, insomma, si parla di 14 senatori del Movimento 5 Stelle. Giarrusso su Facebook scrive: sarebbe stata un'infamia, insomma, votare o comunque far passare la candidatura di Schifani, un'infamia, una cosa insopportabile per la mia coscienza. Parole, insomma, molto dure, no? Sì, parole molto dure, diciamo che si difendono questi senatori dietro alla scelta di coscienza, evitare dunque l'elezione di Schifani, ma tra l'altro lo stesso Grillo oggi sul blog parla di una scelta comunque difficile, dice quella da Schifani e Grasso era una scelta impossibile, come decidere tra la peste bubonica e un raffreddore, però Grillo dice è una situazione che è stata creata appositamente a tavolino da PD e PDL, in una sorta di inciuccio della vecchia politica, una vera e propria trappola nella quale sarebbero cascati appunto i senatori del Movimento 5 Stelle. Lui dice il problema non è Grasso, il problema è il rispetto delle regole del Movimento, non si può disattendere un contratto, chi l'ha firmato deve mantenere la parola e visto che c'era stata una decisione a maggioranza di... Questo andava fatto. Anche se appunto al di là dell'ordine di scuderia, al di là del contratto eccetera, insomma comunque nel Movimento 5 Stelle non tutti la pensano proprio allo stesso modo e viva Dio, nel senso che insomma sono persone diverse, ci può essere sicuramente all'interno di un partito, di un movimento, qualche sfumatura, e diverse sfumature sono state colte dal senatore Marco Scibona, che Alessandra Schepisi ha sentito poco fa per Italia in controluce. Allora sentiamo la sua intervista. Non c'è nessun problema, siamo uniti più che mai. Ma c'è stata una spaccatura però. No, assolutamente, non è una spaccatura, siamo un bel gruppo, abbiamo dimostrato di avere ognuno una propria testa, abbiamo fatto delle valutazioni e quello che è uscito, magari un risultato non unitario per certi versi, ma fermo e deciso su altri, quindi non vedo... Però insomma Grillo ha detto che alcune persone si dovrebbero dimettere perché era stato deciso di non votare Grasso. Ma che uno dissenta o sia d'accordo con quello che è successo ci sta, ci mancherebbe, tanto quanto altre persone, ci sono stati molti attivisti che hanno apprezzato, molti che non hanno apprezzato, fatto sta che il risultato comunque fondamentale era quello di non essere parte integrante di queste decisioni, e non lo siamo stati. Quindi, scusi, secondo lei questi 13 senatori hanno fatto bene a votare secondo coscienza? nel senso che non me la sento di accusarle, perché hanno avuto delle ragioni che non sono condannabili. Quindi non andrebbero espulsi, secondo lei? No, secondo me no, ma non penso che vengano espulsi. Quindi non è stato, come dire, disatteso un contratto, perché Grillo ha scritto è stato disatteso un contratto, la coerenza e il rispetto verso gli elettori che imponeva, come dire, una certa unitarietà, no? Di decisioni. Sicuramente, ovviamente avrei anch'io preferito un qualcosa di unitario, certamente. Però anche le loro ragioni effettivamente non possono lasciarmi così neutro. Quindi insomma, secondo lei il movimento non deve decidere come un blocco unico, c'è spazio anche alla libertà di coscienza, questo dice? Sì, libertà di coscienza noi dovremmo utilizzarla solo e solamente per questioni estranee, non discusse nel programma. Però ecco, questo non potrebbe avvenire per esempio per la fiducia, se uno secondo coscienza, ecco, la fiducia è un'altra cosa, no? È tutta un'altra cosa ed è assolutamente un altro discorso. La fiducia è un altro discorso, sì, perché insomma quanto successo al Senato può aprire nuovi scenari anche in vista della formazione del nuovo governo che si spera imminente, ma insomma ancora non sembra vedersi la luce. Alessandra Scappisi resta un attimo con noi, invece noi ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Allora Vincenzo, quali scenari potrebbe aprire questa spaccatura, non possiamo dire spaccatura, Scibona ha detto che insomma non c'è stata alcuna spaccatura, però insomma questa divergenza di opinioni all'interno del Movimento 5 Stelle. Sì, buongiorno. Innanzitutto, assolutamente la spaccatura, definiamola così, all'interno del Movimento 5 Stelle fa ben sperare, inevitabile, e non lo possiamo nascondere, il Partito Democratico da Largo del Nazareno insistono a dire faremo tutto alla luce del sole, sulla traccia di quanto fatto sabato per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, ovvero noi proporremo dei nomi e poi chi vorrà starci voterà l'eventuale nuovo esecutivo. Per questo Bersani sta lavorando ad un governo veramente con tanti nomi nuovi, donne e tanti giovani, quindi quella del Partito Democratico è una speranza nel vedere il Movimento 5 Stelle con queste divisioni, mentre il Popolo della Libertà riunito in questo momento, almeno nei suoi vertici, qui a Montecitorio c'è la riunione dei deputati, presieduta però da Berlusconi, per decidere i nuovi capigruppo che tra l'altro saranno Schifani e Brunetta. Il Popolo della Libertà, come detto, sta in un angolo, ha fatto la sua proposta a Bersani, a noi il Quirinale in cambio di voti per il nuovo esecutivo, proposta rigettata e bocciata da Bersani, di qui il Cavaliere infuriato questa mattina, addirittura dice se il Capo dello Stato sarà di sinistra daremo battaglia in piazza. Ecco, questa è un pochino... Sì. La situazione, ricordando anche Monti potrebbe veramente in questo caso, per quanto i suoi numeri siano limitati, ma fare l'ago della bilancia e probabilmente per la nascita di un governo, però non PD, Movimento 5 Stelle, ma ancora per un governo cosiddetto di larghe intese. Piera. Ma su quanto sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle, il nostro Vincenzo Miglietta stamattina ha raccolto l'intervista di Pierpaolo Baretta del PD, sentiamolo. Più che altro è interessante la reazione dei parlamentari nei confronti di Grillo, e cioè che stanno dimostrando, come è giusto che sia, che quando si è qui si guarda anche ai problemi veri, si guarda a ciò che è l'interesse principale per il Paese, e quindi mi sembra che la reazione di Grillo sia una reazione, diciamo, scomposta, segno di una complicazione che non aveva previsto. Bersani ha detto una cosa molto interessante nei giorni scorsi, ha detto hanno scelto la via parlamentare, potevano non sceglierla, ogni strada ha delle sue conseguenze, in Parlamento si vive la vita parlamentare, alla luce del sole, trasparente, ma con le regole proprie. Qui si vota e ogni volta che si vota si decide in coscienza da che parte stare. Alessandra Scappisi, allora occhi puntati sulla riunione dei senatori del Movimento 5 Stelle. Eh sì, è in corso una riunione al Senato e tra l'altro oltre a alcune questioni di formalità, l'indicazione dei vicepresidenti e dei questori, c'è ovviamente sul tavolo il caso espulsioni. Appunto il codice del movimento che prevede che si possa proporre l'espulsione di un parlamentare. parlamentari del Movimento 5 Stelle a maggioranza. Ricordiamo che invece alle 14 c'è proprio l'assemblea plenaria di tutti i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, anche qui per fare il punto della situazione, capire sì. quanto è accaduto da questa riunione, e fare il punto su quanto è successo. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi, grazie a Vincenzo Miglietta, la nostra redazione romana, che ritroveremo naturalmente nei prossimi GR24 ma anche nello spazio di approfondimento politico alle 16:45. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Italia in Controluce torna domani alle 13:30. Un saluto da Maria Piera Ceci.